Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Nove minuti in punto di questo 13 dicembre, venerdì, giornata venerdì 13, infatti Boris Johnson vince a valanga le elezioni del Regno Unito, vince chiaramente sulla Brexit, dimostrando che piaccia o non piaccia un senso comune popolare inglese è assolutamente a favore dell'uscita dall'Unione Europea, al di là di tante vulgate compiacenti che abbiamo letto nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, ma giornata anche del ricordo, e oggi abbiamo la cronaca del 12 dicembre a Milano, quando si inaugurò la terribile strategia della tensione con le bombe, e di questo parleremo, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Un buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, venerdì 13 dicembre 2019, con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato alle notizie che arrivano dall'Africa e dall'Europa. Noi cominciamo dall'Africa, cominciamo con l'Algeria, dove ieri si sono infine tenute le elezioni presidenziali, dopo mesi di contestazioni iniziate a febbraio, culminate con l'uscita di scena politica del presidente Bouteflika ad aprile e con il potere sostanzialmente nelle mani dei militari. In questi mesi un forte movimento di piazza ha contestato le elezioni, invitando al boicottaggio, e ieri i risultati si sono visti nelle urne. La percentuale dei votanti è stata del 41,14%, la più bassa di sempre nelle consultazioni per la scelta del capo di Stato. Contando anche il voto all'estero, la percentuale scende al 39,93%. I risultati del voto saranno annunciati oggi alle 14, ha precisato l'Autorità Nazionale per le Elezioni. Nello stesso momento è prevista una manifestazione ad Algeri per la 43esima settimana consecutiva da quando sono iniziate le proteste. E anche ieri, giorno di voto, è stata l'occasione per manifestazioni nella capitale e in diverse zone del paese. La polizia è intervenuta ad Algeri con gas lacrimogeni. In alcune località il voto è stato sospeso per ragioni di sicurezza e alcuni seggi elettorali, come state sentendo in sottofondo, sono stati saccheggiati. La Corte Penale Internazionale ha deciso che ci sono ragioni valide per istruire il processo a carico di Patrice Edouard Nguessona, ex ministro dello sport della Repubblica Centrafricana, e Alfred Yekatom, soprannominato Rambo. Le accuse per i due sono di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Non tutte le accuse presentate sono state ritenute congrue dalla Corte. Il comunicato parla di conferma parziale, spiegando, senza entrare nei dettagli, che per alcune di queste non c'erano prove sufficienti. I due sono imputati per le azioni commesse dalle milizie anti-Balaka, di cui erano responsabili tra il 2013 e il 2014. Il premier Ahmed è tornato ieri in Etiopia dopo aver ritirato a Oslo il premio Nobel per la pace, evitando però ogni conferenza stampa che potesse risultare imbarazzante. All'aeroporto di Addis Abeba, dice la stampa locale, è stato accolto come un eroe. Parlando con i giornalisti ha detto di voler incontrare quanto prima il presidente eritreo Afewerki, che al contrario di lui non ha ricevuto nessun encomio per la fine, ancora tutta da scrivere, del conflitto tra i due paesi. E lo stesso Ahmed sembra passare un momento non proprio felice in patria. Proprio in queste ore la Polizia Federale ha iniziato a pattugliare 45 università nel paese dopo che nei giorni scorsi sono proseguiti gli scontri tra studenti, in cui sembra che la molla scatenante sia stata la diversa etnia. Le violenze con fasi alterne vanno avanti da più di un mese e precisamente dal 9 novembre. Secondo le autorità, le violenze potrebbero essere pilotate per destabilizzare proprio il premier. Ha scelto Twitter il presidente nigeriano Muhammadu Buhari per confermare che a partire da gennaio chiunque abbia un passaporto di un paese africano otterrà direttamente alla frontiera il visto d'ingresso. Si tratta, per Buhari, di sostenere la libera circolazione degli africani in Africa, un progetto che da tempo l'Unione Africana caldeggia e che la comunità regionale di cui fa parte la Nigeria, la SEDEAO ECOWAS, già consente tra i 16 stati membri. Se la circolazione delle persone è così garantita, meno libera resta la circolazione delle merci. Visto che le frontiere terrestri sono chiuse da agosto, ufficialmente per fermare il contrabbando, e che lo resteranno ancora per un tempo da definire. mano nella mano, in un gesto percepito come affettuoso e complice. Da tre giorni la foto di Félix Tshisekedi, presidente della Repubblica Democratica del Congo, e Paul Kagame, suo omologo in Ruanda, seduti vicini durante un incontro a Kigali, circola su tutti i media, social o meno, destando sentimenti contrastanti, stupore, indignazione, contentezza, ma soprattutto commenti a raffica, tanto da far intervenire il portavoce della presidenza congolese su Twitter per spiegare che si tratta solo di diplomazia. Ma in un'epoca in cui l'est del paese non cessa di essere teatro di attacchi, con il sospetto che dietro le azioni armate, saccheggi e gli omicidi ci sia la mano del Ruanda, ecco, quella mano stretta così con tanta simpatia non va molto giù. Arriverà domani il verdetto nel processo a carico di Omar al-Bashir, l'ex presidente del Sudan, che in questo procedimento è incriminato per corruzione. È il primo di una serie di processi che dovrà affrontare, tra i quali anche quello per alto tradimento. Sudafrica, la crisi energetica è a tali livelli che il presidente Ramaphosa ha interrotto il suo viaggio in Egitto per entrare in fretta a Johannesburg, dopo che le interruzioni di corrente avevano costretto fabbriche miniere a chiudere. I problemi giudiziari di Eskom, la società pubblica di energia, sembrano riflettersi anche a livello tecnico, ma la società e il presidente Ramaphosa scelgono di parlare di atti di sabotaggio. Lo ha fatto per primo l'amministratore delegato della società, seguito mercoledì dal capo di Stato. What has also come out as a great concern is that there has been a measure of sabotage that has led to the loss of during this period of 2000 megawatts. La versione è che qualcuno all'interno dell'azienda abbia manomesso il sistema che gestisce il carico di carbone nelle centrali, ma i sindacati protestano. Secondo loro non è la prima volta che la società getta la colpa sui lavoratori anziché ammettere una cattiva gestione nella manutenzione degli impianti. E restiamo in Sudafrica, dove è stato condannato da un tribunale di Pretoria a 6 ergastoli e complessivi altri 80 anni di carcere l'uomo che tra il 2013 e il 2016 ha commesso rapine e stupri in serie. La più giovane delle sue vittime aveva 12 anni, la più grande 41. La giudice che ha pronunciato la sentenza ha detto esplicitamente che l'uomo non meritava di vivere in una società. In chiesa bisogna vestirsi in modo consono, quantomeno nella chiesa di San Pietro, luogo di culto cattolico in pieno centro di Nairobi, in Kenya. L'elenco dei vestiti inappropriati sarebbe stato forse difficile, così qualcuno ha appeso una foto sul portone. A occhio e croce, più croce peraltro, si tratta di canotte, scollature eccessive, vestiti senza maniche, jeans con i tagli lungo il tessuto, pantaloni che scivolano lungo il sedere, occhiali da sole e magliette con la scritta Red Devil, diavolo rosso. Europa, Gran Bretagna, la vittoria di Boris Johnson non sarà risicata. Alle 7 del mattino, quando sono stati scrutinati la maggior parte dei seggi, il premier uscente può essere sicuro della sua vittoria almeno quanto Jeremy Corbyn può esserlo della propria sconfitta. A livello percentuale, i conservatori ottengono il 43,6% dei voti, con un più 1,2%, mentre i laburisti perdono 7,6 punti percentuali, scendendo al 32,3. In termini assoluti, una differenza di 3 milioni e mezzo di voti tra i due. Se Corbyn sia stato punito perché troppo di sinistra, come oggi piace dire ai tifosi di un centro-sinistra moderatissimo, o solo sia stato perché è arrivato troppo tardi a riprendere le fila dei punti storici della sinistra, non li si può ancora dire. All'interno del suo partito molti hanno già chiesto le dimissioni, ma Corbyn ha assicurato che non guiderà i laburisti in una prossima campagna elettorale, ma che rimarrà al suo posto per guidare il partito in questo momento di riflessione. I will not lead the party in any future general election campaign. I will discuss with our party to ensure there is a process now of reflection on this result and on the policies that the party will take going forward. And I will lead the party during that period to ensure that discussion takes place and we move on into the future. Il Parlamento europeo chiede al primo ministro di Malta, Joseph Muscat, di dimettersi immediatamente e di non aspettare gennaio, avvertendo che qualunque ritardo potrebbe compromettere le indagini sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. La richiesta arriva con una lettera degli eurodeputati indirizzata ai leader europei che ieri erano riuniti a Bruxelles. Ovviamente non riveste alcun carattere ufficiale, ma un'altra lettera è quella firmata da 12 gruppi di tutela della libertà di stampa e di trasparenza nella pubblica amministrazione, che esortano i leader europei a chiedere a Mosca la garanzia che, scrivono, tutte le indagini e i procedimenti giudiziari siano condotti in modo imparziale, tempestivo ed efficace e senza alcun coinvolgimento o influenza da parte di qualsiasi persona potenzialmente implicata nel caso. Ancora una lettera, questa volta indirizzata alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. A scriverla sono una decina di intellettuali, giornalisti ed esponenti islamici che denunciano come l'Unione Europea abbia finanziato un rapporto sull'islamofobia in Europa affidato a una fondazione che è strettamente legata al presidente turco Erdogan. Il rapporto è uscito a settembre, denso di numeri e di informazioni, raccontando di un'Europa dove gli atti di violenza legati alla religione sono sempre più numerosi, soprattutto in Austria, Germania e altri paesi dell'est. Che cosa c'è che non va? Il fatto è, dicono i firmatari della lettera, che quelle informazioni sono errate, poco scientifiche e usate a scopo politico per colpire chiunque si opponga al governo turco, perché il direttore della fondazione SETA che ha redatto il rapporto non è altro che l'ex portavoce di Erdogan. Nel rapporto i firmatari della lettera sono accostati e messi sullo stesso piano di organizzazioni razziste, naziste e antimusulmane, cosa che rifiutano categoricamente. Essere contro l'islam politico non è essere antimusulmano, spiegano. Essere critici da musulmani di alcune posizioni religiose non è essere islamofobici. Il link alla lettera, molto interessante, lo trovate sul nostro sito. Segnaliamo che la stessa fondazione è dietro un altro rapporto dove vengono indicati come nemici decine di giornalisti che hanno denunciato la svolta autoritaria della Turchia. Austria, l'80% delle persone con disabilità fisica o con problemi mentali o cognitivi ospitate in istituti di cura ha subito nella sua vita una forma di violenza psichica o fisica. Il dato emerge da uno studio realizzato in Austria attraverso interviste pubblicato ieri sul sito del Ministero degli Affari Sociali. 8 persone su 10 hanno dichiarato di aver subito violenza psicologica a un certo punto della loro vita e lo stesso vale per la violenza fisica. Circa una persona ogni due ha riferito di violenza sessuale. Se si confrontano le risposte con quelle date da un campione di persone non disabili, si scopre che le persone con disabilità subiscono violenze psicologiche 3 volte più spesso e fino a 4 volte più spesso incorrono in violenza fisica. Anche la violenza sessuale si manifesta con più frequenza, 1 persona su 3 ne riferisce e sono le donne con malattie mentali ad essere le più esposte. Tra le ragioni che lo studio individua, una è proprio la permanenza in strutture di tipo concentrazionario, gestite con carenze sia di mezzi sia di personale con adeguata formazione. Svizzera chiude la centrale nucleare di Mühlberg, la prima dopo il referendum del 2017 che ha decretato l'uscita dal nucleare civile per la Confederazione. La centrale, che si trova a ovest di Berna, è rimasta accesa per 47 anni. Da stamattina verrà ridotta gradualmente la potenza e si prevede che lo spegnimento completo avverrà entro 10 giorni per poi passare allo smantellamento della centrale. Ci vorranno più di 10 anni perché l'area torni a essere frequentabile. E sempre in Svizzera, nonostante i Verdi siano risultati il partito più votato alle elezioni di ottobre, non saranno rappresentati nel Consiglio federale. Ieri il voto ha confermato i 7 consiglieri uscenti, nominando la socialista Simonetta Sommaruga presidente della Confederazione. I membri resteranno in carica fino al 2023. Per sapere come funziona il Consiglio federale svizzero vi rimandiamo al link sul nostro sito. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Vi saluto, vi lascio con le altre trasmissioni di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna, con il resto delle nostre rubriche per chi ci ascolta online, e vi do appuntamento a domani con il web notiziario orientale a cura di Serena Console. Una buona giornata, un buon fine settimana. Every 9:17 minuti, continuiamo a Radio Zanardi e parliamo delle celebrazioni del 12 dicembre che evidentemente hanno come epicentro Milano per la terribile strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Il Corriere Milanese oggi dice: una ferita che sanguina, ma la violenza ha perso. Queste sono le dichiarazioni del sindaco Sala. Benemerto per questa presenza e per le scuse pubbliche nel Consiglio Comunale a Pinelli e la famiglia per quel suicidio, tra virgolette, che in qualche modo inaugurò e continuò la pista di sangue del dopobomba. Ma sulla vicenda di Piazza Fontana noi abbiamo questo servizio il pomeriggio di Focus On, questa volta il momento di Jacopo Fo, e sentiamo le sue parole. 50 anni dopo la strage di Stato, mercoledì 18 dicembre, ore 17:30, all'Arci Guernelli in via Gandusio 6, presentazione del libro La strage di Piazza Fontana, di Saverio Ferrari. Agostino, ma c'è qualche personaggio, qualche autore di tua conoscenza che ha vissuto quegli anni e li ha raccontati? Guarda, il primo che mi viene in mente è Jacopo Fo. E allora andiamo ad ascoltarlo. Abbiamo con noi al telefono Jacopo Fo, che non ha bisogno di presentazioni, e al quale ovviamente ci sarebbero mille domande da fare, perché parliamo del 68, del 69. Il primo libro che a memoria vi ricordi sul 68 era proprio di Jacopo Fo e Sergio Parini, una pubblicazione della Feltrinelli del 97. Il titolo era proprio 68, c'era una volta la rivoluzione, i 10 anni che sconvolsero il mondo. Quindi la prima domanda che mi viene in mente da farti è questa. Ovviamente lì la trattazione era abbastanza semiseria, un po' come piace a noi, però c'erano molti spunti interessanti, e al di là di questo, diciamo, un giudizio innanzitutto su quello che è stato il 68 e su quella che è considerata l'onda lunga, appunto questi 10 anni, che in realtà furono davvero 10 anni, e quindi si arrivò al 77 più o meno nello stesso modo, oppure erano due cose differenti, il 68 e il 67, insomma un giudizio in primo luogo generale. È una fase storica che è durata 10 anni e che ha visto un numero incredibile di persone in tutto il mondo ribellarsi. Oggi non ci si rende conto di come fosse repressiva, noiosa, tutta di un solo colore. L'idea della vita che si aveva prima del movimento, che poi parte in realtà ancora prima del 68, ma comunque diciamo di questa fase storica. E la cosa incredibile è questa ribellione parte dalla Cina, dall'America, dall'Asia, dall'Europa, dall'Africa, cioè tutto si muove, anche appunto culture che erano fuori dai contatti con il resto del mondo, come quella cinese, esplodono e cambia tutto. C'è qualcuno che dice che nel 68 abbiamo perso, sì certo, non abbiamo costruito un mondo perfetto, però tutto è cambiato, la concezione dei rapporti d'amore, dei rapporti sessuali, la libertà, i diritti degli omosessuali, dei disabili, dei malati, dei bambini, e anche dal punto di vista scientifico, cioè alcune grandissime scoperte sono dovute proprio a un cambiamento di logica. All'inizio degli anni 80 si scopre, una donna lo scopre, che la cellula non è un organismo unitario ma è una cooperativa con i mitocondri, che in ogni cellula possono essere anche 1000 o più, e che hanno un loro DNA. Era una cosa che era evidente ma non era stata notata, capita, identificata, e ha portato al cambiamento dell'idea proprio dei meccanismi evolutivi. Possiamo parlare della salute, della psicologia, della didattica, dell'educazione dei bambini, del parto dolce, di tutto, insomma, è stata una completa rivoluzione. Per quanto riguarda, insomma, un tuo giudizio per quanto riguarda quella che era diciamo il 68 dal punto di vista più politico, nel senso dal punto di vista dei gruppi della sinistra extraparlamentare che un po' giocavano a farsi la guerra l'uno con l'altro, ecco, e dall'altro lato invece la mancata attenzione forse dei partiti della sinistra cosiddetta istituzionale, il PC in primo luogo, ecco, pensa a questo, un tuo giudizio su quest'altro aspetto. Hanno cannato tutto, penso che non c'è stata nessun gruppo politico che ha saputo raccogliere la ricchezza di questo cambiamento. C'è stato un tentativo di sfruttare questo cambiamento per costruire il compattino, per dare addosso agli altri. Appunto, io racconto di tutte le botte che ci furono tra comunisti, una cosa vergognosa, che fu dei motivi della crisi del movimento, così come un altro motivo della crisi del movimento fu la fazione che scelse di usare metodi sempre più violenti, tantissimo con morti, le bombe, gli arresti, le persecuzioni, le torture, però sì, questo attacco violento, bisognava trovare un altro modo per reagire, perché reagire con la violenza fu non solo moralmente, umanamente scorrendo, ma fu proprio un disastro, perché contribuì a tagliare le gambe a questo movimento, e i gruppi politici, sia il Partito Comunista che i gruppi extraparlamentari, non seppero mettersi al servizio di questa rivoluzione culturale, certo. La interpretarono soltanto dal punto di vista politico, chi addirittura appunto che da quel movimento sarebbe nata l'Armata Rossa, la rivoluzione comunista eccetera eccetera, o comunque una lotta politica, e furono pochi invece a vedere che era una lotta culturale. Io ebbi la fortuna di far parte del gruppo Gramsci, che era uno dei pochi gruppi che non cercò di mettersi a comando ma al servizio della rivoluzione culturale, per cui la musica, per cui i nuovi rapporti tra le persone, l'arte eccetera eccetera. Nobody's next in between me and my man. It's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick reggae. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Nove 28 minuti dunque di questo 13 venerdì, che è giornata appunto che porta Iella. Infatti le notizie non sono belle per quanto riguarda l'internazionale, ovvero sia un'altra scheggia impazzita dopo Trump, Erdogan e tanti altri alla guida di un paese importante come il Regno Unito. Parliamo di Boris Johnson, che ha vinto la sua battaglia, una battaglia in nome della Brexit, che evidentemente è un sentimento maggioritario nelle classi popolari del Regno Unito. Gli exit poll, trionfo per Johnson, questo è quello della sera. Elezione nel Regno Unito, lo spoglio della notte, ma secondo i primi dati il premier avrebbe in aula un margine di 86 seggi. Larga maggioranza ai conservatori, uscita rapida dall'Unione Europea, sconfitta la sinistra di Corbyn, e sicuramente adesso ci sarà un attacco della destra laburista di Tony Blairiana per avere lo scalpo di Corbyn colpevole di questa sconfitta. Dunque, non abbiamo i dati percentuali, perché in Inghilterra sappiamo c'è maggioritario secco, se non un collegio vinci anche di un voto, hai vinto tutto, e perciò sarà interessante vedere anche percentualmente come sono andate queste elezioni. Ma sta di fatto che a livello istituzionale il Partito Conservatore Britannico si è assicurato la maggioranza alla Camera dei Comuni. Leggo da questa mattina, quindi sono andati al di là degli exit poll. Dunque, la Camera bassa del Parlamento britannico, secondo l'esito dei voti delle elezioni anticipate di questo 12 dicembre. Il partito guidato dal Premier Boris Johnson, con quasi tutti i seggi ormai assegnati, ne ha ottenuti 359 su 650, ben oltre la soglia di 326 necessari per governare senza la necessità di alleanze con altri partiti. Sconfitta per il Labour, dicevamo, di Corbyn, che conquista solo 191 seggi collegi, perdendone 71 rispetto a due anni fa, davvero un tracollo. È possibile che già il 21 dicembre si voti l'accordo della Brexit e che passi la Camera dei Lord entro poi la fine mese. Questo è il dato che arriva da questo voto. Boris Johnson ha detto di andare fino in fondo con la Brexit, come discorso subito dopo le elezioni, e che andremo avanti con la Brexit anche senza se e senza ma, usciremo il 31 gennaio uniti. Abbiamo provocato un terremoto, dice ancora Boris Johnson, e cambiamo la mappa politica del paese. Dobbiamo cambiare il partito per essere all'altezza, ha detto il Premier, dicendo guai ai vinti nel suo all'interno dei conservatori. Ho ricevuto il mio mandato straordinario, ha sottolineato Johnson, dichiarando di voler essere il primo ministro di tutti. Voglio guidare un governo della nazione, ha detto secondo questo la BBC, che ne ha raccolto la dichiarazione. E poi, continuando ancora sulle notizie che arrivano stamattina, la von der Leyen, vediamo il confronto europeo, dobbiamo aspettare i risultati finali, beh, sono questi, e ascolteremo immediatamente il primo ministro per essere rassicurati sul percorso, ma la Commissione siamo pronti per qualsiasi cosa succeda. Lo dice la von der Leyen commentando i risultati delle elezioni del Regno Unito. Siamo pronti a negoziare qualsiasi cosa sia necessaria. Domani sarà importante per ricevere il mandato dal Consiglio europeo. Questa è l'incertezza che naturalmente si respira in quel di Bruxelles. Vediamo invece agli sconfitti. Passiamo alla pagina del Labour, è la resa dei conti senza quartiere all'interno del partito britannico. Dopo il tracollo elettorale, in molti, quelli della destra, imboccano un nuovo leader in attesa delle dimissioni di Jeremy Corbyn, che tutti considerano scontate ed imminenti. Corbyn ha detto che non guiderà il partito alla laburista di opposizione alle prossime elezioni generali, dopo la schiacciante sconfitta. Dice: non guiderò questo partito in nessuna futura campagna elettorale generale, ha detto il veterano socialista, 70 anni, che ha comunicato il suo voto, che ha comunque vinto il suo seggio al nord di Londra per la decima volta. Questo è il quadro. Notizie che abbiamo preso dunque dai flash agenzia per aggiornare i giornali, che evidentemente battuta o ribattuta notturna sono indietro nelle notizie. Sta di fatto che le previsioni erano azzeccate, perché dice Brexit non Brexit, questo è il problema. Quindi diciamo che tutti siano un secondo referendum sulla Brexit, e ancora una volta il Remain ha perso sonoramente. Con dei seggi indecisi fino all'ultimo, Johnson favorito, ma questo è il manifesto prima dei dati finali. Altro tema che sconterà profondamente questo voto Brexit, l'Irlanda del Nord, quindi con la questione complessissima del confine tra l'Eir e l'Ulster, e con la possibilità che si riaccenda un conflitto civile, se non militare, nell'Irlanda del Nord, che appunto è il tema di Enrico Terrinoni. Irlanda del Nord, il manifesto, un voto sul confine, tensione tra gli unionisti, divorzio e riunificazione nelle urne. Il rapporto sui controlli doganali rivelato da Corbyn ha infiammato il dibattito, quindi tutto da vedere questa cosa. Poi ci sono i desiderata, che successe già al tempo persino con Reagan, si è ripetuto con Trump, e ora è il momento di Boris Johnson. Emmott del Financial Times: ora che non ha ostacoli potrebbe sorprendervi col suo volto moderato. Non c'è dubbio che sarà un volto moderato in economia, a partire dalla sanità pubblica. Sul terreno degli esteri non credo che Boris Johnson sia diverso da Trump o Erdogan o Putin. Il paese vuol chiudere la questione europea, dice Emmott, che forse confonde i suoi desiderata con la realtà della politica. Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori. Riprendiamo questa notizia dal Resto del Carlino, che è l'ultimo quotidiano andato in stampa e quindi ha i dati forse più aggiornati che ci sono. Seggi per i conservatori i 368 e 191 invece per i laboristi. Partito Nazionale Scozzese, 55 seggi, e quello che c'è da dire, in aggiunta a quello che diceva Alfredo, problemi con l'Irlanda del Nord, problemi ci sarà anche con la Scozia che chiede l'indipendenza. E questo articolo di pagina 13 del Resto del Carlino ci parla del flop dei Labour favorevoli all'Unione Europea, e Labour sarà la fine dell'era di Corbyn. La finanza esulta dopo gli exit poll, la sterlina ha guadagnato il 2% rivalutandosi in Europa, e c'è Ursula von der Leyen dopo le dichiarazioni twittate da Boris Johnson che dice Brexit subito entro la fine dell'anno, Ursula von der Leyen dice siamo pronti a tutto. Stesso stampo di notizia arriva dalle pagine della Stampa, scusate il bisticcio di parole, trionfa Johnson, il Regno Unito vota la Brexit subito, Boris the Spider sulle prime pagine di tutti i giornali. Repubblica apre con la prima pagina con scritto Europa bye bye, trionfa Boris Johnson, i conservatori hanno la maggioranza assoluta, prima volta nella storia, la Brexit è sempre più vicina alla disfatta per Jeremy Corbyn, il Labour perde 76 dai tempi della Thatcher, mai una vittoria così ampia per i Tories. Hanno votato circa 2 milioni di giovani in più. Rimaniamo in Europa perché stiamo in Francia, e allora nessuna tregua sotto Natale, Parigi resta nel caos, tutti i sindacati in sciopero contro la riforma delle pensioni, solo gli industriali appoggiano il piano Macron. Ora direi che è trasparente chi ci guadagna e chi ci perde, tutti i lavoratori in sciopero, gli industriali sono favorevoli al piano Macron sulle pensioni, chissà chi sarà a favore di questo piano di Macron, eh? Vabbè. E quindi questo è chi va, andasse mai all'ultimo dell'anno a Parigi, sa che troverà una situazione a rischio proprio di musei e locali pubblici chiusi. Mentre in Ungheria Orbán mette il bavaglio anche ai parlamentari, non basta la stampa, la magistratura, adesso a tutti, ai teatri, ormai può parlare solo lui. Dopo gli artisti scomodi, appunto confermo Michele Iacarino quanto mi diceva adesso Andrea, il premier silenzia pure i deputati, chi lo critica viene sospeso. Questo è il dibattito parlamentare. Io non sarei d'accordo, fuori. Questo è. A proposito di nuovi eroi, la Bolivia, con questi, tra virgolette, decantati eroi democratici, secondo la stampa occidentale delle major giornalistiche, che sono ribellate il dittatore terribile Evo Morales socialista, e infatti hanno fatto un golpe tipicamente latinoamericano con un massacro a seguire. Lo conferma, dice il manifesto, il rapporto preliminare elaborato dalla Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Il rapporto di questo CDH demolisce il governo golpista in Bolivia dell'autoproclamata Agnes, che ha perso delle elezioni di 10 punti, ma contestando a Evo Morales di non aver vinto al primo turno anche il ballottaggio, aveva vinto comunque, però ha preso lei il potere con i militari, questo per tagliare la testa al toro, e tagliare la testa in realtà anche molti manifestanti in senso non figurato. Il rapporto diffuso il 10 dicembre non fa nessuno sconto al governo golpista, raccomandando la creazione di un gruppo internazionale di esperti indipendenti che facciano chiarezza sui fatti di violenza registrati dal paese nell'ottobre scorso, a cominciare dai due massacri del 15-19 novembre di Sacaba e Sencate, che qui hanno perso la vita almeno 18 persone. Questo è quello che arriva dalla Bolivia. Ma mi sposto nella parte del più infelix del pianeta in questo momento, mi sposto in Yemen. Yemen la denuncia, produttori di armi e governi complici dei crimini di guerra. Quindi dice, come dice il Papa, non solo chi usa bombe atomiche, ma anche chi costruisce, vende e usa e ha gli arsenali pieni di armi fa peccato mortale. Io direi di più, se ci fosse una categoria più grave del mortale, un peccato universale. Comunicazione alla Corte Internazionale che valuterà se aprire un'indagine. Questo poi vediamo, perché la Corte Internazionale dell'AIA fa delle indagini su questo paese, ma sui grandi crimini di guerra e grandi crimini di traffico d'armi è un po' più distratta, diciamo. Un incontro con l'ufficio del procuratore che vaglia preliminarmente le possibili indagini della Corte Penale Internazionale, con il deposito di una corposa comunicazione a oltre 350 pagine per segnalare l'ipotesi che i dirigenti delle aziende armiere, funzionari pubblici e responsabili delle licenze di esportazione siano complici nei presunti crimini di guerra commessi dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Yemen. Grazie, continuiamo dal mondo. Il Niger, che prende le pagine dei giornali per un episodio di sangue, un assalto jihadista alla base militare, strage di reclute, Parigi è in allarme, l'ISIS mette a segno il più sanguinoso attentato in Niger e lancia l'offensiva per ricostruire un pezzo di califfato nel Sahel, alla frontiera col Mali e il Burkina Faso, nel mirino da mesi. È una nuova fase inaugurata nell'ultimo discorso del defunto califfo Abu Bakr al-Baghdadi e proseguita dal suo successore Abu Ibrahim al-Hashemi. L'attacco arriva dopo l'allarme lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron sul Sahel, che si sta trasformando in una Afghanistan francese, secondo molti analisti di Oltralpe. Parigi ha perso una ventina di soldati negli ultimi mesi. Due settimane fa lo Stato Islamico ha rivendicato l'abbattimento causato da uno scontro fortuito durante una missione di due elicotteri francesi. Ancora oggi a Bruxelles un vertice. Conte incontra Merkel e Macron per il problema della Libia, si cerca un nuovo leader appunto per la Libia. L'offensiva, il generale Haftar è alle porte di Tripoli, l'ONU aveva lanciato l'allarme e si rischia una carneficina. Italia, Francia e Germania sono convinti che né Serraj né Haftar possano garantire la stabilità in Libia. E l'Italia insiste sul rischio terrorismo, è un argomento sensibile per convincere la Francia ad un'azione comune. E c'è l'ira di Grecia e di Cipro. Ankara invia all'ONU l'accordo con Tripoli sui confini marittimi del Mediterraneo e fa arrabbiare Grecia e Cipro perché porta via nei confini del mare appunto la loro paternità. E per quello che riguarda invece gli scontri, la stampa pagina 10, Francesca Paci, inviata da Algeri, ci parla appunto delle presidenziali disertate dai movimenti democratici verso il ballottaggio tra l'islamista Ben Green e l'indipendente Tembour. Scontri, boicottaggi e astensione. Resa dei conti tra le due Algerie. 5% sono i seggi chiusi per proteste e boicottaggi delle forze di opposizione. 33% è stata l'affluenza fino alle 17 di ieri sera, in calo rispetto al 2014 quando era stata del 51%. Ancora notizie dal mondo, le prendiamo da le pagine della Repubblica, che continua da ieri l'inchiesta sui testimoni dell'assassinio di Giulio Regeni. E proteggiamo insieme il testimone del caso Regeni, un'intervista al procuratore del Kenya Aggi, Nordin Aggi, 46 anni, procuratore del Kenya, che dice: la mia ragionevole speranza è che Silvia Romano sia viva. La dinamica ci fa pensare che dietro al sequestro ci sia la mano di Al-Shabaab, appena citato nelle cronache appunto del Niger. E questa era ancora una notizia dal mondo. Sì, parlavi delle elezioni che ieri sono svolte in Algeria per le elezioni presidenziali, boicottata al movimento Iraq, il movimento che considera troppo vicini al passato regime, al regime, i vari candidati in lizza, e si prevede che anche in futuro, voto non voto, ci saranno queste mobilitazioni. Ma il punto sulla situazione del paese con Giuliana Sgrena del Manifesto, che sta seguendo le vicende algerine. Ascoltiamo. Arriva questo voto dopo 10 mesi di manifestazioni in piazza con milioni di algerini che hanno manifestato contro questo sistema e che vogliono battere il sistema, quindi non si accontentano di un riciclaggio di vecchi uomini che hanno fatto parte del regime e in particolare hanno lavorato con Bouteflika. E si arriva a questa elezione dopo che la piazza è riuscita a far dimettere Bouteflika e quindi a farlo ritirare dal quinto mandato e dopo 2 annullamenti di elezioni precedenti. Anche questo voto è fortemente contestato dalla piazza. Stavo seguendo adesso delle manifestazioni oceaniche ad Algeri e quindi si arriva in un momento di grande tensione, ma siccome il regime è del tutto delegittimato, pensa di passare a una legittimazione attraverso questo voto. Qual è la strategia che sta mettendo in campo il regime nei confronti di questo movimento? Faccio ovviamente riferimento ai mesi passati delle proteste popolari che ci sono state e cosa potrebbe succedere in futuro nel caso in cui poi le proteste continuassero. Le mobilitazioni probabilmente continueranno, perché questo voto, comunque vada, comunque venga presentato, sarà l'espressione di una minoranza in Algeria. E il braccio di ferro quindi penso continuerà, nonostante siano stati 10 mesi di manifestazione, quindi hanno impegnato molte forze e si potrebbe temere anche una stanchezza da parte del movimento che protesta. Non penso che gli attuali personaggi che governano l'Algeria, in particolare il capo di Stato Maggiore Gaid Salah, vogliano gettare la spugna, anche se sono fortemente contestati, quindi cercheranno di resistere. Queste elezioni sono state fatte anche proprio per dimostrare che comunque nel paese è possibile tenere delle elezioni, e però fino a quando potranno resistere questo è difficile saperlo. Hanno messo in campo tutto quello che potevano, anche i processi contro personaggi che hanno fatto parte dei governi precedenti, ministri, e ci sono state delle condanne pesanti, per esempio Ouyahia, che era un ex primo ministro, ha avuto 15 anni di prigione, se là 12, perché accusati di corruzione. Quindi tra l'altro questi che li hanno condannati sono gli stessi che sono implicati in questo sistema, non è che sia l'opposizione che li ha condannati, sono loro stessi che al loro interno cercano di far finta di eliminare la corruzione, perché la piazza protesta contro la corruzione, ma non è che giudicandosi tra di loro, espellendo alcuni esponenti del vecchio regime, mettendoli in carcere, questo dia credibilità al sistema, al potere attualmente. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. «9.47, continuiamo dunque. Brutte notizie per Andrea, che fosse in bicicletta, ma il tempo nevica Milano e Torino. Era prevista ed è arrivata la neve, dice un flash di questo momento, sta scendendo ad Ampifiocchi a Milano. Al momento non si registrano inconvenienti, la neve era prevista con l'arrivo della tempesta di Santa Lucia, una sorta di ciclone che in queste ore attraverserà l'Italia da nord a sud. L'attesa perturbazione ha riportato il maltempo sul Piemonte, neve a Torino e anche in pianura tra Torinese e Alto Novarese, l'estensione biellese e verbano, in parte versilese, alessandrino, tracunese, artigiano. Vediamo se verso est passerà anche per Bologna o meno, ma naturalmente la cosa non è che stupisce, perché nella giornata del 13 dicembre la neve non mi sembra completamente bianco natale, si diceva un tempo. Però il Corriere scrive, Massimo Spampani, la super neve, punte di 4 mesi, cannoni spenti, ma che peccato che non abbiamo i cannoni a sparaneve e consumano l'ira di Dio di acqua. Comunque non succedeva da 20 anni, Alpi volano e venti schipass, questo è. Però allerta maltempo, la tempesta di Santa Lucia che si dà la vista, ma anche la neve, allerta maltempo, scuole e parchi chiusi a Roma e in quanto ai Napoli. E la domanda è: cosa fai tu per l'ambiente? Si chiude oggi a Madrid la conferenza sul clima e l'azione quotidiana di giovani attivisti ed esperti per salvare il pianeta. Quindi abbiamo niente carne, sciopero di nascosto, dice Vanessa. Uso il treno, auto e scooter condivisi. Luca, 33 anni, ma molti usiamo l'auto scooter, ma comunque. Dall'Ara, invece, 37 anni, difende i movimenti indigeni. Questo è quanto. E da questo sciocchezziario del Corriere della Sera, che confonde con la buona educazione con le grandi scelte industriali, economiche ed ecologiche, vediamo appunto: linea verde non decolla. Passiamo al manifesto. Governi in ordine sparso. Sì, uno può anche, giusto, è come giusto fare, risparmiare l'acqua quando si lavano i denti, ma finché quelli sprecano l'ira di Dio di acqua nelle industrie e quant'altro, c'è poco da fare. Anna Maria Merlo, per la Commissione è importante che dal Consiglio europeo, che si conclude oggi a Bruxelles, venga almeno un segnale positivo sul Green Deal, il famoso segnale simbolico, politico. Ma veniamo alle cose concrete, perché parlando di Piazza Fontana, poi abbiamo Luciana Castellina, dice, è lo stesso discorso, e adesso apriamo i dossier, perché la propaganda se n'è fatta fin troppo, e anche i famosi segnali politici da mettere sui giornali, l'intervista con l'astronauta, quelle tutte cose belle, ma se non hanno conseguenze non è colpa dell'astronauta, per carità, è colpa di chi l'intervista. Comunque vediamo che questo The Green Deal presentato del mercoledì dalla presidente Ursula von Leyen, con l'obiettivo di fare dell'Unione Europea la prima economia mondiale carbon free nel 2050, però mancano i soldi, perché le scelte a monte non trovano i soldi, quindi rimangono sogni nel cassetto con tanto di faldoni abbandonati. Decreto clima quando le buone pratiche non bastano. In Italia il tanto atteso provvedimento non incide nei settori più inquinanti, come voleva confermare, come si voleva confermare anche in chiave italiana. E allora arriva quello che Don Tonino Bello chiamava l'ONU dei popoli, cioè oggi si chiama Friday for Torino, oggi in piazza ci sarà anche Greta Thunberg. L'attivista svedese, Maurizio Pagliazzotti dal Manifesto, raccoglie l'invito dei giovani torinesi. Intanto Trump accatta dopo The Time, l'ha definita, l'attacca, e dopo che la Time l'ha definita persona dell'anno, dopo prima Bolsonaro poi Trump, direi che domani Boris Johnson e forse Erdogan. Ci vediamo alle 15 in piazza Castello Appendino, dice, verrò ad ascoltare, speriamo che ascolti e poi anche per quel che può fare un sindaco evidentemente dia la conseguenti cose, iniziative. Il giornale, naturalmente quando leggo dal giornale il consiglio è verificare le fonti non una ma 10 volte, perché il giornale va preso con le molle. Comunque facciamo finta che sia vero, ammesso non concesso, la svolta verde dell'Unione Europea col nucleare, le centrali atomiche incluse nella risoluzione ambientalista votata a Bruxelles. Questo è il, sarebbe, non, però non direi, non mi stupirei più di tanto se la parola nucleare, ecologia, passasse anche l'energia nucleare. E anche qua si torna a Trump. Trump a Greta, hai problemi di rabbia, dice Trump, e con una faccia che quanto a rabbia non è seconda a nessuno, eh. Lei lo beffa sui social, ci sto lavorando, botte e risposte via Twitter, alla fine interviene anche Macron, avanti così. Ma detto questo, più interessante di queste cose che sono fanno parte del folklore, del gossip, da titoli di stampa patinata, Ugo Mattei dal Fatto Quotidiano fa una riflessione: la nuova guerra si fa col diritto dei più forti, tribunali come armi. I colossi sfruttano la legge contro i deboli, soffocando ogni dissenso dalla Monsanto alle repressioni dei notavi in Val di Susa. E quindi tutto legale, per carità, tutto in nome della legalità. Grazie Alfredo, e direi quando viene la neve e ci sta tutta per il giorno di Santa Lucia, è molto meglio avere la bici che la moto. Oltretutto quest'anno il comune si è impegnato a pulire con i mezzi spazzaneve anche le piste ciclabili, quindi ben venga la neve e ben vengano le biciclette. Ma continuiamo a parlare di ambiente, prendiamo la notizia dalle pagine del Sole 24 Ore e parliamo della manovra Green New Deal di Ursula von der Leyen che va avanti in Europa, ma c'è qualcuno che frena, e qui si ricollega al discorso che faceva prima Alfredo sulle centrali atomiche. Infatti ci sono alcuni paesi che vogliono continuare ad affidare un ruolo importante per l'energia al settore dell'atomica e del nucleare, e ci sono Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca che chiedono più fondi oltre al meccanismo che Ursula von der Leyen di crediti e debiti per compensare le nazioni che non vogliono e non riescono ad allinearsi alla decarbonizzazione. Questi tre stati chiedono più fondi, oltre 100 miliardi già promessi per gestire la transizione energetica, ma evidentemente non si accontentano a smantellare progressivamente le centrali a carbone per arrivare al 2050 al carbon free. Ancora notizie, questa la prendiamo dalle pagine della Stampa. Oggi per il Friday for Future a Torino sarà la città con lo sciopero più nutrito. Perché? Perché arriva la giovane Greta, la svedese, arriva a Torino da Madrid con un'auto elettrica. Gli ambientalisti saranno tutti in Piazza Castello. Oggi arriva a Torino da Madrid, a Bruxelles l'Europa si spacca sul piano del clima, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, appunto, si nota questa cosa. E c'è la frase di Greta che si rivolge all'Italia e dice: non c'è più tempo, lo smog va sconfitto, la pianura padana è il sito europeo maggiormente inquinato di CO2 e biossido di ozono, e bisogna fare in fretta per eliminare queste sostanze tossiche e nocive. E sempre sulle pagine di Repubblica, Franco Giubilei ricorda che è nata pochi anni fa a Bologna, oggi conta 50 redazioni, è la radio dei ragazzi ambientalisti, l'emittente del movimento Friday for Future, i redattori sono tutti under 18, seguiamo gli scioperi a bordo delle biciclette, raccontano le testimonianze nelle piazze italiane e le mandano in onda. Questa è la notizia appunto delle pagine sul clima che sono riferibili alla stampa. E volevo segnalare anche un articolo di fondo di Luca Mercalli, sempre sulle pagine della stampa, che dice: nella grande sfida climatica globale Torino si presenta Greta, una città densa di pensiero e di azione, non solo perché ti ha acclamato con entusiasmo nei due scioperi globali per il clima del 15 marzo e del 27 settembre, partecipanti da decine di migliaia di studenti, ma soprattutto per la sua eredità scientifica e intellettuale. Questa città, severa e ordinata dalle sue vie, inquadrate le grandi Alpi innevate, ha iniziato nel 1753 a osservare l'atmosfera nella sua università. E l'articolo va avanti a suon di date per arrivare in fondo dicendo che nel 1989 a Torino si tenne la dimenticata ormai conferenza Atmosfera, Clima e Uomo, che annunciava ciò che sarebbe poi successo se non avessimo fatto nulla. Purtroppo è andata così, ora occorrono nuove energie, nuove passioni, nuove forze, e tu Greta e i milioni di ragazzi e ragazzi colorati e vivaci, giustamente preoccupati, che ti seguono, potete farcela svegliare una società ancora troppo distratta. Non scordate mai il lavoro di chi prima di voi ha pazientemente costruito quel sapere che oggi sostiene la vostra sacrosanta lotta. Ancora qualcosa sul clima, lo riprendiamo dalle pagine di Repubblica e siamo ancora in un commento di Luca Fraioli, il grande gioco sul clima, e dice: grazie all'azione dell'allora presidente USA Barack Obama, nel 2015 Pechino aderì agli accordi di Parigi, anzi fu tra gli artefici di quel successo. Oggi l'America di Trump latita, tocca all'Europa tirare dentro i cinesi, e non può farlo se non dando il buon esempio con il nostro Green New Deal, ha confermato Timmermans. Vogliamo dire alla Cina che è possibile ridurre le emissioni adottando una nuova strategia di crescita. Il piano verde dell'Europa è un messaggio chiaro alla Cina, ma si conta a sorpresa con i dubbi dei paesi dell'est di cui abbiamo appena parlato. E veniamo allora al Grand Hotel Parlamento. Secondo il manifesto, che il Parlamento apre porti girevoli, c'è chi entra e c'è chi esce, e Conte si rilassa. Tre senatori 5 Stelle passano alla Lega, il forzista Bendinelli va con Renzi. Una pattuglia azzurra pronta a dare una mano al governo. Quindi uscirebbero dei 5 Stelle verso la Lega, perché il senatore dissidente Lucidi è anche un po' cinico, annuncia 20-30 eletti dei 5 Stelle pronti a formare un gruppo autonomo per poi passare alla Lega, quindi far cadere il governo, ma verrebbero impiazzati da gente di Forza Italia. Questo sarebbe il porti girevoli, altrimenti cambierebbe anche l'asse del governo, perché chiaramente si sposterebbe verso posizioni molto più moderate delle attuali. Smottamento Pestan Stellato e rafforzamento di Italia Viva, Di Maio è furioso. Questo è quanto Conte attacca: chi va con la Lega aspetterà anni per governare. Il premier sui responsabili vedremo contro i numeri a voti in aula. Devo dire che nell'ultima elezione appunto il governo ha avuto una maggioranza stabile, anche con i fuoriusciti dipende quant'è lo smottamento, e i prossimi appuntamenti in Senato, che la maggioranza è più risicata, quanto quoteranno questi nuovi razzi o scilipoti. Qui dicono che è bello che rinfacciano a Di Maio il tradimento sul MES, e sarà anche vero, ma la Val di Susa, le grandi opere e tutto ciò che dice la Lega, quello invece non è un tradimento. Ma andiamo avanti. Il Fatto Quotidiano, l'audace colpo di Volta Gabbana, ed eccoli qua i tre personaggi che si sono messi in luce per avere passato dal Movimento 5 Stelle alla camicia verde. Come funziona il mercato delle vacche? Subito all'opera i tre 5 Stelle passati alla Lega, un raro tenta di resumare la prescrizione nel disegno di legge fisco. Lucidi Grassi, quello delle multe salate ai transfughi, già agli ordini. Questo è questa è l'eminenza azzurra, infatti anche qui si parla di entrate ed uscite porti girevoli, perché Letta lavora per il pro giallo rosa e contro Salvini, quindi c'è tutto e di più. Il Giornale, come altri giornali della destra, naturalmente dice: piovono locuste e rane dal cielo, anzi locuste dalla terra e rane dal cielo, tasse di Natale, nel menù del fisco le partite IVA spuntano alti balzelli. Qui altrimenti continua a dire grandi balzelli che o non ci sono o vengono revocati, però insomma ormai hanno fatto passare il senso comune che è il governo delle tasse. 5 Stelle a pesti, 3 senatori passano alla Lega. Ma c'è un altro aspetto che è interessante di questa vicenda, cioè con questi 3 che passano alla Lega la maggioranza perde voti, legge elettorale più lontana e quindi più lontano anche il taglio dei parlamentari. Giallorossi indietro di 10 punti nei sondaggi, veti incrociati sulla soglia, beh, naturalmente leggendo dal giornale i guai della maggioranza si aggravano, veti incrociati sulla soglia del 5% e modello spagnolo. Renzi manda la Boschi, niente trappole, da lunedì si tratta per un programma per il 2020. Nel frattempo dice anche il manifesto, stallo sulla legge elettorale. L'EU dice no alla soglia del 5% perché chiaramente è al di sotto di questo nei sondaggi. Proporzionale della discordia, Renzi chiede quello su base nazionale. Il rischio è che il testo non arrivi entro Natale, oggi si riunisce la direzione del PD. Renzi poi dopo la fuoriuscita in Parlamento che ha citato sia Aldo Moro che Craxi fa la gioia di Marco Travaglio che non vedeva l'ora. Aldo Renzi e non Aldo Moro, oppure Renzi Aldo Renzi con la Xi. Si pensava che il primo Pinocchio della settimana fosse una questione tra Salvini per le sue balle sul MES e i cosiddetti dissidenti 5 Stelle passati o in procinto di passare alla Lega. I solghenizi indeno altri, parlano di coerenza sul MES e poi si consigliano al partito che li ha tradito ogni giorno per un anno e mezzo sul reddito, TAV, trivelle, inceneritori, autostrade, blocca prescrizione e acqua pubblica. Poi ha parlato Renzi, arringando i pochi senatori presenti nel tentativo di somigliare a Moro e Craxi, arrampicandoci sulle loro tombe per tramutarsi da nano in gigante. Purtroppo la statura è rimasta la stessa. Dopo aver ripetuto da quando partì l'inchiesta Open che non ce l'ha coi PM, ha elogiato quelli morti e calunniato quelli vivi. Dopo aver sprizzato bile e rabbia da ogni orifizio, si è vantato dei suoi sorrisi, esibendo una via di mezzo tra un ghigno e una paresi. Così tutti hanno capito che l'indagine lo terrorizza. Solo un soggetto in preda al panico riuscirebbe a tracciare il record mondiale di balle al secondo, peraltro già il suo. In 20 minuti di delirio ne abbiamo contate 30, poi vengono enumerate e chi lo vuole può guardare sul Fatto Quotidiano. Ma può capire, poi c'è anche la motivazione per cui Renzi ha voluto questo bello governo giallo-rosso per cercare di avere una maggioranza parlamentare che lo copra al momento del bisogno da indagini. Questo è quanto. L'altro, naturalmente, la Lega invece, ecco, se Renzi dice non ci faremo processare in piazza, lo disse Aldo Moro nel 77, poi la cosa, il processo Lockheed, dove la DC era inguaiata fino al collo, poi la cosa finì niente perché ci fu il rapimento Moro e tutto finì naturalmente nella tragedia di Via Fani. Ma invece abbiamo la Lega con i suoi voli di Stato, di Salvini, che non solo non li ha utilizzati evidentemente per andare a fare riunioni pubbliche istituzionali perché andava a fare comizi, ma soprattutto anche perché comunque non poteva usarli, essendo questi voli di Stato solo per le prime 5 cariche dello Stato, quindi lui non poteva usarli. Ma i voli di Stato, io non ero in vacanza. E poi fa un mojito. Salvini si difende dall'accusa di abuso. Inauguravo caserme. Il 5 Stelle lo contesta. Solidarietà da Forza Italia. Sì, ancora sulla politica prendiamo il giornale più disfattista di tutti per questo affair sui 3 senatori transfughi dal Movimento 5 Stelle alla Lega. Dice crack 5 Stelle, più di 30 pronti alla fuga. 3 senatori passano, Di Maio furioso con Salvini, la Lega ha aperto il mercato delle vacche, metta anche il listino prezzi. E al Senato 15 dissidenti, una ventina alla Camera e tradiscono questo mandato. E poi c'è una parentesi che riguarda le nostre elezioni regionali di fine gennaio. Bonaccini è ancora in testa ai sondaggi di EMG e Noto, e il governatore uscente è tra il 45 e il 49%, la leghista Lucia Borgonzoni lo insegue di 3-4 punti. Spunta fuori anche il terzo in gara, una sorpresa, il Movimento 5 Stelle sceglie l'outsider Benini, piccolo imprenditore, dal 2014 consigliere comunale di Forlì. Su Rousseau sono bastati 335 voti su più di 1000 votanti, e questo è l'outsider del Movimento 5 Stelle. E poi c'è anche una lista civica del candidato di centrosinistra che è accreditato dal solo 10%, questo ce lo diceva il Resto del Carlino. Invece le pagine della politica della stampa sono per Renzi, che attacca i pubblici ministeri citando Moro e Craxi, ma la colpa è dei politici troppo pavidi. Dibattito in Senato sulla Fondazione Open, nell'inchiesta giustizialismo e barbarie, pochi in aula ad ascoltarlo. E il Monico, invece c'è un colloquio con il Premier Conte, il monito di Conte ai delusi dei 5 Stelle, no, io non scommetterei su Salvini. Questa era ancora la notizia, ancora di politica, si parla nelle pagine di Repubblica, dove viene citato ancora Benigni, che correrà per il Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna, e Di Maio è furibondo per le altre possibili uscite dal Movimento 5 Stelle, e PD in allarme, le voci di un accordo Salvini-Renzi. Questo era la politica. E poi domani questo appuntamento delle sardine, l'Italia non lega, a Roma, Piazza San Giovanni. Fium con le sardine, un caso Genova, i disegni fatti al nido. Naturalmente ci va a caccia dei sardinari in tutta Italia. Quindi abbiamo domani la segretaria della Fium Sindacato, Francesca Redavid, della Fium per l'appunto, sindacato metalmeccanico CGL, annuncia la partecipazione delle tute blu al fianco di un movimento ampio di giovani antifascisti e antirazzisti, ma al rispetto dell'autonomia dello stesso, cioè senza bandiere. Mentre il cardinale Peter Tacson, prefetto del Dicastero dello Sviluppo Umano, non esclude che le sardine possano essere invitate in Vaticano con altri gruppi che combattono la xenofobia. Mentre nei giorni scorsi sono arrivate aperture anche il segretario di Stato Vaticano Piero Paolo e dall'ex segretario della CEI Nunzio Galatino. A Genova invece c'è polemica, ripresa anche non solo dal Corriere ma anche dal Giornale, in consiglio comunale, dove il centrodestra ha sollevato il caso di un asilo nido gestito da una cooperativa che ha impegnato i bimbi di 3 anni a colorare sardine per la manifestazione del 98 novembre scorso. L'assessore alla cultura Barbara Grosso ha deciso di convocare il responsabile cooperativa per comprendere e affrontare il caso. Ce l'ha chiesto un gruppo di genitori, si difende Paola Campi della COP, e noi abbiamo detto che se qualcuno era contrario poteva dircelo, e la loro figlia avevamo fatto disegnare un totano. Povere sardine, dice così il Corriere della Sera. E andiamo invece poi tutti i vari distinguo, anche un po' fastidiosi, perché al di là del merito, tutti quelli che fanno le punte alle sardine come coi maestrini, gli ultimi sono quelli dell'Arcigay Roma, che non sanno se saranno in piazza. Questo perché? Dunque leggiamo perché hanno, le sardine sono complimentate con l'elezione del nuovo della nuova consigliera della Corte Costituzionale Mara Carabia, prima donna alla guida della Consulta. La cosa non è piaciuta perché all'Arcigay di Roma, perché l'Angeli si tratta di un'omofoba che è vicina come Liberazione, scrisse cose terribili, no, sulla famiglia. Questo, ma ovviamente le sardine anche potevano saperlo, come non lo sapevo anch'io francamente. E poi forse non ci saranno. Mi sembra più coerente invece come analisi e come vista da chi sta dentro un movimento, non da chi sta fuori o chi vuole sabotarlo, i ragionamenti che fa Piero Bevilacqua dalla penultima pagina del Manifesto, dall'epica delle piazze alla prosa dell'impegno quotidiano. Dice Bevilacqua, in una riflessione in questo senso davvero fraterna: un radicamento del movimento delle sardine nei territori darebbe alle proteste la forza positiva dai poteri dominanti e ai loro esponenti politici, che oggi manca. Una forza di massa che pur non vuole diventare un partito non può limitarsi ai buoni sentimenti. Ci sono alcuni contenuti politici imprescindibili come l'ambiente e la scomparsa del bel paese. Questo è il quadro. Comunque si risuonerà sicuramente Canzoni di Dalla, questa volta non è come In profondo il mare, ma Stella di mare. Che le stelle della notte fossero ai tuoi piedi, che potessi essere meglio di quello che vedi, avessi qualcosa da regalarti, e se non ti avessi uscirei fuori a comprarti. Stella di mare, tra le lenzuola, la nostra barca non naviga, vola, vola, vola. Tu voli con me, tu voli con me. guardi intorno, sta già entrando la luce del giorno. Chiudi gli occhi e non farti trovare, pelle bianca di luna devi scappare. Dormi ora, stella mia, prima che il giorno ti porti via, via, via. Tante stelle di mare domani cadranno in Piazza San Giovanni a Roma. E per rimanere sull'argomento, torna Ken Loach, il famoso regista di Riff Raff e Piovono Pietre, regista dell'Impegno, in Cineteca tra Riders e Sardine. Non sarà contentissimo che Loach ha cominciato le lezioni in Inghilterra, ma è un uomo direi abituato a tenere duro, quindi poi incontrerà, chiaramente prenderà il suo film ultimo, ma peraltro incontrerà anche il lavoratore dei Riders, quelli meno protetti, e in sala dovrebbe esserci anche una rappresentante delle Sardine, movimento con una forte rappresentanza di millennials proiettati in modo naturale nel nuovo sistema di valori e diritti che sta prendendo forma. L'interlocutore speciale è Loach, la cui poetica e politica è sempre stata cristallina, sempre dalla parte di chi subisce, ma che può ribellarsi dalle battaglie degli anni 70 al mondo digitale di oggi. Quindi direi che non i cattivi ma i buoni maestri non mancano, volendoli cercare. Martedì a Bologna. Ma passiamo al mondo del lavoro. Un piano sul niente. Ex Silva, il governo brancola nel buio, quindi direi che siamo un po' come l'Italia, completamente a tentoni. Solo la promessa di mantenere produzione e occupazione nel 2023. Patuanelli e Provenziano, duri con Mittal, l'accordo prevede penali. Per arrivare a 8 milioni di tonnellate di acciaio si pensa di affiancare al ciclo integrale degli altoforni di Taranto nuovi forni elettrici. I sindacati, ma niente cassa integrazione e guadagni nel frattempo. Per parlare di lavoro, continuare a parlare di notizie sul lavoro, lo facciamo con le pagine del Sole 24 Ore, giornale della Confindustria. C'è una fotonotizia con una infrastruttura strategica, una veduta aerea del nuovo terminal di Vado Ligure, il cosiddetto Vado Gateway. È un grande terminal marittimo, appunto, da aprire nei prossimi giorni in Liguria. Per quello che riguarda l'ex Silva, riesame l'estrema difesa dell'altro forno 2 e il piano del governo ha previsto probabilmente una new company mista statale privata per alimentare i nuovi forni elettrici, e si spera esattamente ai fondi europei per cercare di arrivare a un intervento di decarbonizzazione, appunto, per quello che riguarda l'ArcelorMittal ex Silva. E c'è sempre sulle pagine del Sole 24 Ore l'allarme delle imprese del nord che col decreto legge del fisco manifestano un rischio per le loro attività. La protesta è unanime, la nota è congiunta di Confindustria Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Le misure previste generano forte incertezza e allontanano qualsiasi nuovo investimento sul paese. La legge di bilancio è ormai quasi pronta, la protesta degli imprenditori del nord sul decreto legge fiscale, in una nota congiunta di Confindustria è riportata appunto sulle pagine del Sole 24 Ore, che fa anche un rendiconto su tutte le nuove norme: la plastic tax imposta a 0,45 euro, la sugar tax, la tassa slitta a ottobre sulle bibite zuccherate a 10 centesimi al litro, le auto aziendali stretta rinviata a luglio ma in versione soft solo sui nuovi contratti, carburanti nel 2021 rischio aumento per oltre 1,2 miliardi, e poi tante altre norme che sono previste, tra cui il taglio delle concessioni per i giochi d'azzardo e l'aumento dei costi e una nuova stretta sul gaming. Per quello che riguarda i comuni, niente debito allo Stato ma una pioggia di prestiti ai sindaci, e salta anche la Robin Tax, scusate, ragioneria al lavoro, ritocchi approvati in commissione, ipotesi clausola tecnica per l'allineamento al decreto legge fiscale, fiducia in aula lunedì. Opposizione all'attacco alla Camera e preoccupazione di Mattarella per i tempi, ma come faremo a prendere i soldi necessari per questa manovra? Ce lo dice il Resto del Carlino, perché è stata data via libera alla cannabis light, ma è stata fissata una nuova tassa per chi produce e per chi vende, così la canapa torna nei negozi, passa in commissione un emendamento in finanziaria targato 5 stelle, il principio attivo non deve superare lo 0,5%, e invece la Coldiretti ci fa sapere che nel 2018 e 19 ci è stato un boom di coltivazioni, sono 4.000 gli ettari ora coltivati a cannabis legale. E poi c'è tutta una scelta, tutta una critica del Carlino su questa manovra, pugno di ferro, mercato a picco, cure palliative, scelta sbagliata, minori a rischio, l'allarme di San Patrignano, basta propaganda, dalla cannabis light si arriva alle droghe pesanti, questo lo diceva Muccioli, ma ormai è stato smentito in tutti i casi. Come si sa, chi ha fatto, passato l'eroina, prima ha fumato anche la marijuana e mangiato anche i tortelloni al pomodoro. Quindi la connessione è evidente. Vietiamo anche i tortelloni e anche il pomodoro. Ma a proposito, apriamo una parentesi veloce sul proibizionismo, perché c'è una cosa che sarebbe divertente ma anche un po' triste. Dal Corriere Milanese: sigarette al bando in statale, vietato fumare anche in cortile. Chissà perché in cortile si può fumare. E poi dice il rettore: richiama gli studenti no all'intolleranza. Chi è l'intollerante in questo momento? Mi piacerebbe saperlo, sulle sigarette fumate all'aria aperta, e lo dice un non fumatore, evidentemente. Detto questo, invece parlo del lavoro ancora, perché si parlava dell'azienda del nord. Noi parliamo di un'azienda del nord, il nostro Appennino, un luogo che sicuramente non vede il lavoro abbondare, quindi quando un'azienda va in crisi è un problema davvero grosso. Parliamo della Demme, che passa di mano in mano, di proprietario in proprietario, e che ha un futuro abbastanza in bilico. Ne hanno parlato i nostri del panel Rose, ricordiamo il martedì pomeriggio trasmissione sindacale sulle nostre frequenze, ne hanno parlato con un funzionario della FIOM, Primo Sacchetti, che ci fa un po' la storia della Demme, sentiamo. Siamo qui oggi con Primo Sacchetti, funzionario della FIOM che si occupa della Demme. Per te, la Demme rappresenta non solo il territorio dell'Appennino ma Bologna, un patrimonio industriale importantissimo, e come giustamente veniva ricordato, nasce facendo un prodotto di altissima qualità che negli anni 60 i calibri erano strumenti di precisione, poi ha avuto l'involuzione industriale che tu prima ricordavi, fino ad arrivare al picco massimo facendo le moto, gli anni 60, il boom economico, quindi i motorini, e poi viene acquistata dal gruppo Graziano Trasmissioni, che decide di fare trasforma l'azienda facendo una riconversione, e quindi si specializza sulla progettazione e industrializzazione in granaggeria, e lì diventa uno dei leader mondiali sulla setta degli ingranaggi. Il gruppo che poi, per congiunture di mercato e per scelte di politiche industriali folli che negli anni 80 ha fatto, sposta la produzione in altri stabilimenti sia a Torino che a Bari, lasciando alla Demme poca cosa. Da qui c'è l'avvento, come veniva ricordato, del gruppo Paritel, quindi Peli prende l'azienda, e poi scelte industriali anche lì scellerate, poi si avvia questo lungo declino fino ad arrivare ad oggi, che vede l'azienda è stata rilevata dal gruppo Certina, come veniva ricordato, da un percorso di amministrazione controllata dal Ministero, di cui Peli ne è l'artefice e il responsabile di questa vicenda. E quindi noi arriviamo al 28 di giugno del 2018 in una situazione ovviamente fallimentare. Quindi c'era una data fissata dal Ministero che era il 28 giugno, c'è stata l'asta che è stata aperta per un anno e si è presentato il gruppo Certina 10 giorni prima sostanzialmente, perché poi l'accordo l'abbiamo fatto il 18 di giugno, acquistando la DEM. Di questo gruppo sapevamo poco o niente, non aveva una forte vocazione industriale, però quello era, quindi con quello abbiamo dovuto fare i conti. È stato un accordo complicatissimo, perché Certina rileva l'azienda e manifesta il suo interesse dicendo che aveva 80 esuberi. Noi ci opponiamo ovviamente a quel piano industriale e chiediamo la salvaguardia occupazionale di tutti i dipendenti, che sono rimasti, ahimè, purtroppo 170 dipendenti, quindi l'evoluzione dai 1.400 ad oggi, quindi in 20 anni siamo a 170 dipendenti. Quindi Certina compra l'azienda e poi da lì arriviamo ai giorni nostri in una situazione delicatissima di cui l'azienda vive e in grandissima sofferenza per due ordini di motivi. Il primo è di congiuntura dei mercati, perché tutto il mondo dell'automotive è in forte crisi, ma è anche vero che siamo di fronte ad un'impresa che qualche problema ce l'ha dal punto di vista industriale, non è un'azienda. Quindi il problema grande oggi che noi viviamo è questo. Oggi in azienda dei 174 lavoratori, 40 lavoratori, quando facciamo l'accordo quadro, hanno accettato attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e 2 anni di NASPI, quindi un percorso di 4 anni, li abbiamo accompagnati alla pensione, in 40 hanno accettato quel percorso. Quindi in forza ce ne sono rimasti 134 con l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, ma di fatto lavorano mediamente 45-50 lavoratori al giorno. Quindi stiamo parlando di una cosa, ormai una candela che si sta lentamente spegnendo. Siamo fortemente preoccupati, perché ad oggi non vediamo nessun cenno né di ripresa e né la volontà dal punto di vista industriale di fare investimenti. Questo sta determinando che l'azienda, al termine del 2020, che sono i 2 anni di periodo di cassa integrazione, ci potrebbe essere il concreto rischio, e io sono fra quelli che penso che l'azienda, se noi non troviamo una soluzione alternativa al gruppo Certina, quindi che qualcuno rilevi con un piano industriale serio, c'è un rischio concreto. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. Andiamo alla Lega, i suoi amministratori, il famoso buon governo di Salvini. Andiamo a Como. Il comune, per la sede nessuna proposta, Como senza dormitorio. L'intervento approvato in estate, ma hanno detto trovano il modo per non farlo, perché devi crociare con questo freddo, possono stare al freddo secondo la cristianità, le radici cristiane dei leghisti. L'intervento approvato in estate, l'opposizione parla di una farsa. Stefano Fanetti del PD, il comune non sa gestire la situazione, punta il dito contro realtà esterne. Dice Magatti, è Civita, assessore dei servizi sociali, il tema dormitorio non è tra le priorità di questa amministrazione, ha detto invece Leotti, 5 Stelle, questo non è una priorità dell'amministrazione, forse per chi sta al freddo sì, col gelo che c'è. Comunque, andiamo invece a questo, fascisti del terzo millennio, la pagina Facebook deve essere riattivata, lo ha stabilito un'ordinanza del Tribunale di Roma. Perché? Ce lo spiega il Fatto Quotidiano e quindi dal manifesto passo al Giornale di Travaglio. Monopoli web. Virginia della Sala dal Fatto, perché Casa Pound ha vinto, Facebook non è una cosa privata. Il Tribunale di Roma accoglie ricorso del partito di estrema destra e ordina al colosso di riattivare il profilo chiuso a settembre. I social sono troppo rilevanti, proprio perché non è una cosa privata, dovrebbe essere proibita, tanto più proibita Casa Pound. Però a leggere bene la sentenza, la palla torna alla politica, perché la piattaforma non può stabilire chi persegue scopi anticostituzionali, spetta alla legge. Quindi il problema non è che Casa Pound sia Facebook, è che Casa Pound ha licità di esistere, secondo la Costituzione non dovrebbe avere licità di esistere, né lei né Forza Nuova, ma invece si dice ma è controverso, così come è controverso il professor di Siena filonazista. perché decisione del GIP, nessuna istigazione, persona di Siena filonazista, torna su Twitter. Noi sappiamo che Facebook ha censurato chi parlava per i curdi davanti l'aggressione turca e li ha cancellati. Se questo nazista può mettere crociuncinate, eccetera, eccetera, va tutto bene. Niente elementi concreti, non so cosa ci voglia, qualche ebreo bruciato nel forno di casa. Solo una lettura storica apologetica nella figura dittatore, Adolf Hitler. Questa è la stupefacente decisione del GIP. Sì, ancora notizie di cronaca, questa la prendiamo dal... Cronaca del Resto del Carlino, cronaca nazionale, anche se è una cosa che riguarda Bologna. Bologna, nel mirino, un imprenditore informatico, rapitori intercettati che hanno sventato il sequestro. La banda aveva chiesto aiuto di un clan napoletano e c'è stata una raffica di arresti, finiti indagati e al verde per essersi fatti beccare e fare truffe online, sono caduti dalla padella nella bracera, inventandosi senza successo sequestratori. E in questo romanzo criminale di provincia emiliana c'è tutto: l'amore clandestino, i soldi, un piano diabolico di rapimento naufragato nell'incompetenza. Tra martedì sera e ieri 15 persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo informativo di Bologna con la collaborazione dei colleghi di Milano per il tentato sequestro di un imprenditore informatico bolognese di 40 anni, di cui non è noto il nome, neppure lui, uno stinco di santo, visto che le due menti del piano criminale, Giulio e Laurea Brioccia, fratello e sorella sardi residenti in Veneto, lo conoscevano bene perché, come si legge nell'ordinanza, è soggetto operante con i loro stessi illeciti sistemi, ma a livelli più alti. Succede qualche mese fa, con due fratelli finiscono nelle maglie di un'inchiesta milanese, accusati di frode informatica e il denaro sui loro conti correnti viene sequestrato. E chiudiamo con un capolavoro della letteratura per ragazzi, Pinocchio, che più forse ancora del giornalismo Gian Burrasca o di Cuore ha in qualche modo segnato lo sviluppo della narrazione per fanciulli nel nostro paese. Pinocchio ha avuto tantissime reinterpretazioni in letteratura, ricordiamo la bellissima Pinocchio di Rodari o anche quello di Vinicio Berti, illustrato con un Pinocchio che, ricordiamo, nella versione originale poi cassato dallo stesso Collodi, finiva impiccato. Questa non era lieto fine, mentre è ultra lieto fine il Pinocchio di Snendiano, molto bello in cinematografico quello con Mencini, molto deludente quello di Roberto Benigni. Ci riprova in questo difficile banco di prova, perché Pinocchio è davvero complesso, difficile, e frequentare un luogo così frequentato bisogna, con creatività, è davvero un'operazione di alto livello. Ci riprova Garrone, che arriva in 600 sale, che naturalmente arriva per Natale, essendo Pinocchio. Dice il manifesto: nel paesaggio di Pinocchio la ricerca del tempo presente, il burattino che sogna di essere bambino tra invenzione, arte e resistenza. Tanti effetti speciali chiaramente che vengono utilizzati. Allora Pinocchio magico, Benigni dice: rifarei quella favola altre mille volte, meglio di no, visto la prima volta come è andata. Geppetto, babbo evangelico come San Giuseppe. E lui dice, Garrone, di voler star fedele a Collodi. Quindi potremmo giudicare questo ennesimo Pinocchio tra i tanti e collocarlo in questa scala di valori collodiana, ma noi, per salutare i nostri ascoltatori e salutare anche Pinocchio ritrovato, cosa di meglio che Johnny Dorelli? Ciao! Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti di tutti i miei segreti, che confidavo a te. Carissimo Pinocchio, ricordi quando ero bambino, nel bianco mio lettino, ti sfogliai, ti parlai, ti sognai. Dove sei ti vorrei vedere, del tuo mondo vorrei sapere, forse babbo Geppetto è con te. Dove il gatto che ti ingannò, il buon grillo che ti parlò e la fata turchina